Martedì autogestito da femministe e lesbiche. E mentre è arrivata la nostra guida spirituale per la rassegna stampa di questa mattina, cantate, cantate, buongiorno femministe e lesbiche, l'8 marzo! Buongiorno a tutte le compagne che si stanno alzando per andare al lavoro. E che per una giornata possono ascoltare l'MFLA in versione large tutto il giorno. Il buongiorno da femministe e lesbiche per femministe e lesbiche in questo 8 marzo e per l'occasione Lesbica è la parola, l'etichetta, la condizione che serve a mantenere le donne in riga. Quando una donna si sente apostrofare in quel modo, capisce che sta passando il segno, sa di aver varcato il tremendo confine del ruolo sessuale assegnatole. E allora indietreggia, inventa scuse, rimodella le sue azioni per farsi approvare di nuovo. Lesbica è un'etichetta inventata dagli uomini per marchiare a fuoco la donna che ha l'ardire di trattare da pari a pari, di mettere in discussione le loro prerogative, compreso l'utilizzo delle donne, tutte le donne, come moneta di scambio. La donna che ha il coraggio di dire i suoi bisogni, che ha il coraggio di dire che i suoi bisogni vengono prima. Una lesbica è una vera donna, non è una vera donna. Eppure, nella rappresentazione corrente, c'è una sola differenza essenziale tra una lesbica e le altre donne: l'orientamento sessuale. Morale della favola, quando si eliminano i fronzoli e gli svolazzi, viene fuori che l'essenza dell'essere donna, in definitiva, è lasciarsi scopare dagli uomini. Queste erano, provocatoriamente, ovviamente, il collettivo delle Radical Lesbians nel 1970. Che è un po' il senso di questo 8 marzo, lotto tutto l'anno, lottiamo tutto l'anno. Le femministe e le lesbiche direi che sono secoli che ormai lottano. E certo non smetteranno oggi. Buongiorno a tutte e tutti, questo è un... Ma avete capito che possiamo dare buongiorno dalla 40ª volta? Beh, ma c'è chi si sveglia alle 6, alle 6 e mezza, alle 7. Questi che si svegliano alle 7 e magari procrastinano nel letto fino alle 7:10. 7:20. Sono fortunati, fortunate. Compagne, buongiorno! Prenderanno il caffè e... mi raccomando, sbrigatevi, perché poi se perdete quei 5 minuti trovate un sacco di traffico. E invece possiamo accompagnarvi ancora, sì, mentre siete in macchina oppure sull'autobus, ascoltate Radio Onda Rossa e noi continueremo con una programmazione fittissima. Prima la rassegna stampa, poi i vari redazionali, poi ci colleghiamo con femministe e lesbiche dall'Italia, dal mondo. Insomma, ovunque, ovunque ci sia ribellione, rivoluzione, autodeterminazione. Beh, tutte queste voci le ascolteremo tutte quante. E dai, buongiorno. Dai. Buongiorno, che vi facciamo cantare sotto la doccia. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Il latte bianco che piano sta montando, è quasi fatta. Zucchera velo, la gola soddisfatta, e nella stanza al cielo si fa così per cominciare il gioco, e ci si mastica poco a poco. Si fa così, è tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente. Lo so, mi state cantando. Si vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente. Quei bei peccati succede sempre. Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni. 24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa. Friends What a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. È la cosa più bella della terra, una schiera di cavalieri, dice. No, di fanti. No, di navi. E io penso. Bello è ciò che si ama. Farlo capire è cosa tanto facile. Per ognuno. Elena, che vedeva la bellezza di tanti, scelse come suo uomo è il migliore. Colui che spense la luce di Troia. Dimenticò la figlia, i genitori e andò lontano, dove volle Cipride. Perché l'amava. Come si piega sempre ciò che è donna. Il suo pensiero è lieve, sul presente. Mi dimentico adesso di Anattoria, perché non c'è. Ma come ne vorrei il caro passo, vedere il guizzo vivido del viso, non i carri dei lidi e i loro fanti che battagliano a piedi. Questa era Saffo. Enough to make your heart sigh. I thought we should try. Lotta! Lotto, lotta! 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop! If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I pad through the dark and call you on the phone. Push your old number. Till I wake your ghost. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sprint across the wire. Follow my number. Slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. Driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down. Let him call me off. I take it from his whisper. You're not that tough. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. Last night, you were driving circles around me. You were. I think last night, you were driving circles around me. You were. I think last night, you were driving circles around me. You were. I think last night. Driving circles around me. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. E buongiorno a tutte e tutti, sono le 7:25, è veramente strano stare in radio a quest'ora di consuetudine del martedì autogestiva femminista e lesbiche, va in onda dalle 17 alle 23, come dice il nostro nome, il martedì, ma questa è una giornata speciale, abbiamo costruito insieme a tante questa 24 ore di maratona radiofonica di femministe e lesbiche in occasione dell'8 marzo e questa giornata che sta per iniziare con la rassegna stampa alle 8, è partita questa notte a mezzanotte. Salutiamo tutte le compagne che hanno permesso di stare in diretta da mezzanotte alle 6. Be right off. Grazie. You know your... E che alcune di loro sono andate adesso a dormire. You know I could make you cry. Just as hard as I'd fall for you. Prima ascoltavamo Christine Nash con Your Ghost. Fall for me hard. Invece di sottofondo adesso abbiamo Betty Davis. So I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You scorch it just like a hot eye. Leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. E visto che Valeria ha attaccato qui un mega tazzebao con il palinsesto di oggi, ovviamente in maniera short, non ve lo leggo tutto perché sennò abbiamo fatto le 8:15, però vi ricordo che tra pochissimo alle 8 comincerà la rassegna stampa, sarà una rassegna stampa tutta di genere. Oggi abbiamo anche Monica Pepe che ci aiuterà dal sito zeroviolenzadonne.it a cercare di tirar fuori appunto appunto tutte le notizie che riguardano le donne, le femministe, le lesbiche, insomma il genere in questi, nei quotidiani di oggi. E poi per chi non la conoscesse o ne conoscesse solo una versione, alle dalle 9.30 alle 10.30 ci sarà uno spazio che si chiama Ti racconto una storia, che parlerà appunto di come è nato, non è nato, di quanto è vera, non è vera questa data dell'8 marzo. Don't wanna love you. E questo spazio ci traghetterà nel cuore della mattinata, dopo una brevissima agenda che faremo dalle 10 alle 10.30, dalle 10.30 a mezzogiorno avremo una trasmissione di approfondimento, un redazionale dall'Aquila alla Val Susa, lo Stato arresta e stupra, libere tutte. E dai, dai, dai. Quanto mi piace l'idea di pensarvi che vi state alzando, state preparando il caffè, che state con un occhio chiuso e uno aperto e avete il vostro martedì autogestito da femminista e lesbica che vi dà il buongiorno! Estás harta de la violencia machista. Harta Frecuencia, 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra Toda Forma de Violencia hacia la Mujer. Programación especial de Red Nosotras Radio. Porque estamos hartas de la violencia machista, Harta Frecuencia. Harta. Estoy harta. Harta de que decidan sobre mi cuerpo. Y que el Estado no garantice mis derechos. Estoy harta. Harta de que la Romina Tejerina la tengan en cárcel por ser violada. Estoy harta. Estoy harta. Harta de no poder usar libremente mi tiempo y mi dinero. Estoy harta. Harta, harta. Estoy harta. E salutiamo tutte le compagne, le femministe e le lesbiche nel mondo. Questi erano due jingles che venivano dalla rete Nosotras nel mondo, che rimanda il nostro segnale fino alle 9 di questa mattina. Ne approfitto per salutare Radio Mass e Transizione di Fase, che stanno collegate con noi praticamente per tutte le 24 ore, per salutare Radio Onda d'Urto e Radio Blackout, che si metterà in contatto con noi dalle 10:30. Radio www.rednosotrasenelmundo.org. 24 ore di diretta radiofonica. Entra anche tu nel mito. MFLA su Radio Onda Rossa. Ma non è soltanto a causa del maltempo, sei raccolto e andato perso. Ed è buffo come a volte il tempo scorra meglio del previsto. Un panico incombente ci costringe ad addomesticare un fervido sorriso, un benessere improvviso. forse una remota speranza, la felicità, godersi il sole in dicembre, non molto lontano da qui. Medica, non molto lontano da qui, la gente scogita, affannose corse in preda all'ansia di tornare al punto di partenza e dimentica il peso della posta in gioco, il come e quando mentre fuori piove. Amore mio, non è una colpa il non saper gestire la gioia, il fatto di trovarsi a proprio agio nel dolore, nella rassegnazione, ed è naturale come a volte ci forziamo ad ignorare il gemito costante delle nostre reali inclinazioni, il margine di errore di un'incessante sottrazione, e forse una remota speranza, la felicità, godersi il sole in dicembre, non molto lontano da qui. Medica, non molto lontano da qui, la gente ostenta oscure stravaganze in preda all'ansia di stupire, indossa le sue maschere e dimentica da qualche parte quella del coraggio nel momento del rilancio. Non nevica, invece c'è il sole, sta per arrivare la primavera. Siamo al giovedì 8 marzo del 2012. Ben svegliate, femministe e lesbiche di tutta Italia e nel mondo, anche se ci sono fusi orari diversi. Sono la comandante della Gulabi Gang. Visito ogni giorno diversi villaggi e incontro le donne della nostra banda. Teniamo riunioni per progettare interventi se ci giunge notizia di fatti che non ci stanno bene. Per prima cosa ci rivolgiamo alla polizia e chiediamo loro di occuparsene. Dal momento che l'amministrazione è nemica dei poveri del nostro paese, però il più delle volte siamo costrette a intervenire in prima persona. Dapprima parliamo con il marito che picchia la moglie. Se non capisce l'antifona, chiediamo a sua moglie di unirsi a noi mentre lo picchiamo con dei lati che sono dei bastoni. Le nostre missioni hanno sempre successo al 100%. Siamo sempre riusciti a fare giustizia nei casi di violenza domestica. La parte difficile è avere a che fare con l'amministrazione, perché non sempre possiamo agire da sole per far rispettare la legge, soprattutto quando i legislatori sono così corrotti. Abbiamo picchiato qualche funzionario corrotto, ma in sostanza abbiamo le mani legate. Gli scagnozzi dei funzionari corrotti e i partiti politici mi minacciano in continuazione. Una volta sono venuti da me e hanno minacciato di ammazzarmi a colpi di pistola. Ma le donne sono venute in mio soccorso, li hanno tempestati di mattoni e li hanno fatti scappare. Da quella volta non sono più tornati. Questa era Sampath Pal Devi in un'intervista. Raga, brigate, fucsia rosa, mettetele come vi pare, viola per tutte. No alla violenza domestica. I close my eyes to see I've touched you once again. E mentre sono le 7.40 è arrivata in radio pure Francesca. Vi metto la canzone che vi fa muovere il culo. In senso ballereccio, eh. state tutte sveglie che fate squilli. Eh sì, è pieno di squilli, io rispondo e loro sono svegli e ci dicono buongiorno. Guardate che ci prendiamo gusto e lanciamo una campagna di finanziamento per una radio femminista e lesbica 24H, eh? Continuate a squillare, quindi vuol dire che vi piace questa idea, sì! C'è chi arriva la mattina e gli rode nervosa! C'è chi si sveglia e non vuole parlare con nessuno! C'è chi si sveglia e pulisce tutta casa. C'è chi si sveglia e rimane nel letto per minuti e minuti fino a far passare le ore. C'è chi si sveglia ed ha bisogno di un buon caffè. C'è chi si sveglia ed ha bisogno di una doccia. Chi si è svegliato per andare a fare la pipì e poi torna a letto. C'è chi si sveglia e accende la radio. C'è chi si sveglia e controlla i messaggi sul telefonino. Buongiorno. Lotto, lotta! Lotto, lotta! Lotto, lotta! Lotto, lotta! Lotto, lotta! Lotto, lotta! Lotto, lotta! Lotta, lotto! Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something alright this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. She says you worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. Why can't you be happy? Ooh, ooh, ooh, ooh. Why can't we be happy? Ooh, ooh, ooh, ooh. What is did nobody tell you the reason why I ask? I can see you're so confused. you complain? Why not live this life while you're still young? It's still okay, 'cause life is short. Do what you can today, today. Why can't we be happy? Martedì autogestito da femministe e lesbiche. E prima avevamo ascoltato Why Can We di Asha. Siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa è la maratona radiofonica del martedì autogestita femminista e lesbica. E ora per un lo sapevate, no pasaran, uno degli slogan più famosi utilizzati anche di recente, diciamo dalla Val di Susa in su e in giù, è stato detto per la prima volta dalla passionaria Dolores Ibarruri, che era nota in tutto il mondo per i suoi discorsi pieni di fervore in difesa della Repubblica negli anni della guerra civile spagnola. E insomma, questo slogan è suo, guarda caso, di una donna. E con questo approfittiamo anche per fare un saluto a tutte coloro che ci stanno ascoltando attraverso la Red Nosotras, una rete di radio che si trova a Madrid, che ha come punto di riferimento Madrid, che poi rimanda il segnale in America Latina, magari anche in Argentina, Cile, Bolivia e in altre nazioni che sono al di là dell'oceano e stanno trasmettendo la maratona radiofonica. Quindi un no pasaran, un augurio di no pasaran anche a i nostri corpi non passeranno mai. Ecco, appunto, non passeranno i nostri corpi. Non lo so come si dice, perché me lo sono dimenticato lo spagnolo. E stamattina te lo sei dimenticato, ieri lo sapevo. Lo so, però non riesco a essere così multitasking, perché nel frattempo sto preparando la rassegna stampa che comincia tra qualche minuto. Con me ai microfoni ci sarà anche Monica Pepe di Zero Violenza Donne, e sarà una rassegna stampa tutta centrata su appunto notizie di genere, o soprattutto con un filtro di genere, perché questo è l'importante, perché non è che parliamo solamente di donne con noi femministe, ma dai, vediamo semplicemente il mondo con un filtro viola, con degli occhiali speciali che io consiglierei sempre di mettere a tutte. Tutti. Che la cecità ci fa male. I need love. Qua c'è chi vuole le mimose, chi vuole le rose. Estoy harta de la heterosexualidad obligatoria. Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni. 24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa. E mentre qui cerchiamo di mettere tutti connessi gli strumenti che ci servono, e mentre Francesca sistema le mimose, che ha comprato l'acqua per metterci le mimose e non per noi. Abbiamo ascoltato Liam Paranoia con Somos Vientos. E nel mentre che aspettiamo la rassegna stampa, che comincerà puntualissima alle 8 come promesso, Audre Lorde, per tutti coloro che la paura ha marchiato come una linea impercettibile al centro della fronte, quelli che hanno succhiato la paura con il latte materno, perché con quest'arma, con questa illusione di sicurezza possibile, gli uomini dal passo pesante speravano di metterci a tacere. Per tutti noi, questo momento e questo trionfo, sopravvivere non era il nostro destino. Per chi non conoscesse Audre Lorde, questa era una poesia del 1978, lei è una poetessa lesbica di afroamericana, negli anni 50 era scritta alla Lega della Gioventù per il Lavoro, un gruppo di legato alla gioventù comunista americana, attivista, femminista, lesbica, non gli mancava niente. Audre Lorde nonché era una grandissima artista e poetessa. I don't like life when things get dull. The hen party have saved the night and freed themselves from drunken stags, having fun and dancing. Beh, Francesca ha deciso che vogliamo far cadere le mimose in testa a qualcuno a Via dei Voci 52, perché le mette su 56, scusate, perché le mette sulla finestra della regia. Ore di diretta radiofonica. Entra anche tu nel mito. MFLA su Radio Onda Rossa. Non so ballare niente, mi te. La vita è una mossa, dimenti come stessa. Sono la tua donna piena d'ombre. Spingo la nave in rotta, sento una fitta al cuore. Non ho paura, voglio solo. Sono le 8:01, comincia la rassegna stampa di questo 8 marzo, una rassegna stampa tutta di genere. Abbiamo qui Valeria e Monica, ciao. Ciao, buongiorno. Comincia la rassegna stampa ufficialmente curata dal martedì autogestito da femministe e lesbiche e da Zero Violenza Donne. Diteci. Cominciamo subito.